Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Città Fujiko, oggi parliamo del progetto BOOM in occasione di Bologna Children's Book Fair e sono qui con Ilaria Tontardini dell'Associazione Culturale Amelin. Di cosa si tratta questo progetto? Allora, BOOM è un festival che accade in città a Bologna in concomitanza con la Bologna Children's Book Fair. È un festival promosso dal Comune di Bologna e da Bologna Fiere e curato dal settore biblioteche e welfare culturale, l'associazione Amelin, e è un momento in cui la città viene letteralmente invasa di attività pensate per i bambini e le bambine, ovviamente che hanno come nodo centrale i libri ad essi e ad esse dedicate. È un momento in cui il gota, direi, dell'illustrazione e della letteratura per l'infanzia mondiale si riunisce in città e per due mesi la città si innerva di iniziative che vanno da mostre a workshop, a atelier, a attività nelle scuole, attraverso i quali si cerca di promuovere la letteratura per l'infanzia in città verso i giovani lettori e giovani lettrici di tutti i gradi e ordini scolastici. Quindi con il progetto BOOM la letteratura viene portata all'interno delle scuole, ma qual è la finalità principale che si cercherà di raggiungere? Allora, la finalità principale, mi verrebbe da dire, è duplice. Da una parte è una finalità di capillarità, cioè andare veramente a promuovere la lettura per bambini e bambine in tutti i contesti culturali in cui i bambini e le bambine sono, per prima appunto la scuola, con il progetto BOOM Scuola, che è un progetto proprio in cui più di 50 autori e autrici incontreranno nelle classi bambini e bambine, ragazzi e ragazze che hanno letto i loro libri e potranno direttamente parlare con loro. Dall'altra parte rendere manifesto il DNA della città di Bologna e come questa città è da sempre molto sensibile al tema della letteratura per l'infanzia, non a caso la prima casa cattedra di letteratura per l'infanzia in Italia è nata in questa città, ma anche al tema dell'immagine e quindi disseminare la città di mostre, piccole esposizioni con grandi autori e grandi autrici, autori emergenti, in maniera da rendere proprio visibile questo DNA per figure della città di Bologna. E infine è possibile anticipare più in particolare alcune delle iniziative che ci saranno in programma? Le iniziative sono tantissime, quindi la cosa che mi sentirei di consigliarvi è di andare a visitare il sito della manifestazione www.boomcrescerenelibri.it, che è diciamo il luogo dove potrete trovare tutte le informazioni. Per darvi degli highlights, oltre a BOOM Scuola che vi abbiamo già un po' raccontato, direi la grande mostra dedicata a Beatrice Alemagna, che è un'autrice bolognese ma è forse la più internazionale delle autrici e disegnatrici per l'infanzia in questo momento, che si terrà alla Fondazione del Monte. La mostra curata dal Dipartimento di Letteratura per l'Infanzia della Facoltà di Scienze dell'Educazione, che sarà all'interno della Biblioteca Sala Borsa, Beauty and the World, sul tema della non fiction negli albi illustrati per i più piccoli, e poi tantissime altre cose che potrei elencarvi, ma ci vorrebbero almeno altre 7-8 ore, quindi vi consiglio veramente di andare a guardarvi questo ricchissimo programma.